Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Freuler, pallone prolungato sul secondo palo, sbuca Masiello e porta l'Atalanta in vantaggio, la torre di Kurtic, va in Masiello che sentenzia l'1-0, Atalanta avanti. Neanche troppa rincorsa per Eder, che effettivamente calcia potente e segna un gol da favola, quello dell'1-1 che rimette l'Inter in partita. Che sì, pensa al tiro, poi giù, calcio di rigore. Fallo di Santon di rara ingenuità. Parte Piniglia. Col destro andando di stocca, ma non basta. L'Atalanta passa in vantaggio a 2 minuti e mezzo dalla fine con Maurizio Piniglia, 2-1. E così si è consumato il pomeriggio dell'Inter, battuta a Bergamo in quella che doveva essere la seconda ultima spiaggia di Frank de Boer dopo la vittoria in Europa League contro il Southampton. La classifica dice 11 punti in 9 giornate, meno 10 dalla Juventus, meno 8 dal Milan, meno 6 dal Napoli, potenzialmente meno 8 anche dalla Roma, lontanissima dalla zona Champions, lontanissima anche dalla zona Europa League, terza sconfitta consecutiva, un punto nelle ultime 4 partite, 6 partite perse nelle 12 stagionali. Snoccioliamo i numeri perché andiamo subito al cuore. Sembra una messa funebre. Va esonerato o no? Oggi il tema è questo, Carlo. Sembra una messa funebre quella che hai snocciolato sotto la denominazione di statistiche, perché queste sono... No, bisogna mettere in fila i numeri per cominciare a raccontare quello che succede all'Inter. Ma sembra la lista dei peccati in un confessionale. De Boer non andava preso, questo mi pare evidente, è stata un'idea balzana di Tohir, perché serviva ordine a questa società, bastava prendere un tecnico italiano, ma fai tu il nome, Prandelli degli Orossi o chi altro vuoi tu, per mettere semplicemente ordine in quello che Mancini aveva costruito in un anno e mezzo e che è stato preso e buttato in un cestino. Però io credo che esista anche una via di mezzo tra il meglio possibile, che mandando via l'allenatore il 10 agosto è impossibile, e lo sfacelo che stiamo vedendo e che si è visto oggi a Bergamo. Primo tempo assolutamente inguardabile. Ciccio Valenti, ciao! Ciao, dai, ciao, voglio ciao, sentire buongiorno, la pancia buongiorno. Del tifoso, voglio sentire anche quelli da casa. 800-24-00-24. Il tema è questo, De Boer sì o no? Tutto, dai. Lo mandiamo o lo teniamo, Ciccio? Secco. Dire che De Boer da buon olandese sta buttando tutto in fumo sarebbe fin troppo facile, sì. Però è veramente dura adesso, cioè è dura sostenere un progetto che era già una surroga di un altro progetto, c'era già un cambiamento, c'era... Era una cosa abbastanza folle aver cambiato a decisione dall'inizio del campionato un allenatore, era già folle confermare questo allenatore, perché comunque i risultati non erano assolutamente positivi, insomma mi sembra veramente che ci sia una grossa confusione, e l'unica cosa che mi fa neanche ben sperare, l'unica cosa a cui attaccarsi è questo sguardo feroce di Ozang e la proprietà, insomma la proprietà. Sì, cioè l'idea che possa arrivare a metà settimana, perché arriverà adesso nelle prossime ore Mr. Zhang a Milano, e in un certo senso fare tabula rasa, perché in realtà c'è una parte dei tifosi dell'Inter, ne raccogliamo anche sui social i messaggi a proposito, 349-238-6666, che ritiene che la colpa sia dei giocatori, che De Boer voglia insegnare un calcio bello. Ma in qualche modo non si stiano adattando. Sarà anche colpa dei giocatori che non recepiscono il suo messaggio, però in un mondo normale tu cosa fai? Hai avuto per un anno e mezzo Mancini, è una rosa che secondo me vale quella di Napoli a Roma, perché io sono convinto di questo. Prendi un allenatore che non sa nulla, ma non sto parlando della lingua, sto parlando del campionato italiano, della realtà italiana. È stato anche in parte presuntuoso, perché ha detto va bene, arrivo io e faccio il calcio che dico io. Un allenatore normale, mi viene sempre in mente Allegri quando ha sostituito Conte alla Juventus, ma può venirmi in mente Capello quando ha sostituito Sacchi al Milan, prende ciò che è stato fatto dal predecessore, lo mantiene, cerca di mantenere la rotta per un po' e pian piano inserisce le sue idee e i suoi giocatori. Però che cosa aveva, che eredità ha lasciato Sacchi a Capello, che eredità ha lasciato quindi vuoi dire che Mancini in un anno, quindi vuol dire che Mancini in un anno e mezzo ha prodotto solo macerie? Ma la squadra che ha allenato Mancini è una squadra che assolutamente ha fallito il primo anno e il secondo anno è stato acciuffata all'ultimo, sì, bene, quindi sì, insomma, non è però solo lascia, Mancini, lascia, anche, lascia un anche quarto posto di... Mancini, lascia una squadra che non può essere 13, i numeri li abbiamo letti prima, non può essere quella. Aspettate, vi fermo perché c'è, interessa sicuramente anche Ciccio Valenti, microfoni di Mediaset Premium, c'è Frank De Boer con Simone Malagutti, andiamo a sentire l'olandese. Regalato letteralmente il primo tempo, d'accordo, poi l'aveva anche raddrizzato. Sto totalmente d'accordo. Sappiamo che è sempre qui in Atalanta è sempre difficile perché molti duelli nel campo normalmente, e per me era così, però per me che stava per me no buono che facciamo con la palla, e specialmente il primo tempo noi abbiamo giocato solo Atalanta, e io ho detto in riposo, e il secondo tempo era molto migliore, specialmente dopo la nostra gol, però per me sempre cominci l'inizio della partita. E per me noi abbiamo giocato bene, specialmente in questo sto molto d'accordo con te. Ecco, senta, in Italia e soprattutto quando si allena l'Inter, purtroppo 3 sconfitte consecutive diventano gravi. Di solito qui è difficile rimanere al proprio posto dopo 3 sconfitte. Lei che sensazioni ha ora? Dalla società anche. No, è sempre difficile, un grande club come Inter con 3 sconfitte consecutive. Sì, no. E è sempre difficile, però io ho visto che possiamo migliorare molto, abbiamo visto nella seconda parte, e per me in questo momento è solo una cosa di tempo per nosotros marcato la seconda gol, e un momento de no sta concentrato, e abbiamo perso la partita per me. Allora, questo De Boer che dice, beh, io mi auguro che non sia sceso, poi che poi non scenda nel spogliatoio, insomma, a dire le stesse cose, perché se lo dice ai fini della stampa è un conto, ma se lo dice nello spogliatoio con questo tono, che abbiamo migliorato mucho, me è migliorato mucho anche perché il peggiorare dopo il primo tempo era impossibile. Obbligate queste, no, politiche, io, no? Scusate, io registro che per la seconda volta in una settimana, l'aveva fatto anche domenica scorsa su Inter Cagliari, allora a metà secondo tempo, oggi tutto il primo tempo ha semplicemente detto che la squadra non ha giocato. Io veramente lo trovo incredibile, Anche regolarmente retribuito perché la squadra giochi, nel senso, non solo, e poi secondo me al di là di come gioca la squadra, secondo me in queste ultime partite c'è stato, anzi oggi forse è stata veramente un'involuzione ma notevole, e c'è poi questo problema grosso che qualsiasi persona entra e fa in area e fa quello che vuole, cioè, perché comunque l'Atalanta ha avuto anche altre occasioni, cosa che l'Inter non ha avuto, e lo dico veramente con, come dice Bergonzone, col cuore in mano e i polsini insanguinati. Allora, il tempo è finito? Sì, o no? Forse, il tempo è finito. Se lui, guarda, secondo me, molto ti aspetti che lo mandino via prima della partita di metà settimana? Se lui entra o no nello spogliatoio e dice abbiamo migliorato mucho, secondo me il tempo probabilmente è finito per abbiamo migliorato mucho, perché migliorato mucho l'ha visto lui, cioè non l'ha visto, non l'hanno visto altri. Secondo me, poi se ce la raccontiamo dentro la società, per cui uno para il sederino all'altro, l'altro para il sederino a quell'altro ancora, l'altro ancora a quell'altro, altri non leggono il libro e fanno una grande presentazione di un libro dove vengono offesi i tifosi, cioè, nel senso, tutta questa cosa qui, secondo me, è tutto migliorato mucho, cioè un po' è fracassato mucho, un po' tutto, no? Cioè, nel senso, il tifoso dopo un po' dice ok, ci sono i progetti, ci saranno i mesi a disposizione, ci sono state un po' di partite, secondo me alla nona giornata e in Europa League ancora peggio. Meorato Muccio, non c'è stato, sì, Meorato Muccio. Ci deve essere qualcosa di diverso. Abbiamo il traffico. No, aspetta un attimo. Siamo in ampio ritardo. Siamo in ritardo. Prego. No, volevo chiedere a voi in modo secco chi oggi potrebbe decidere di esonerare De Boer. Ma fra due giorni arrivano i cinesi, arrivano loro. Quindi sono loro. Possono loro. Loro. Ma io voglio anche chiedere a casa, perché i messaggi ne arrivano tanti che insomma danno secondo a De Boer il tempo scaduto. Che hanno risolto il problema di Icardi quando l'altra volta si è creata una frizione tra la curva e il pubblico. Non mi venite a raccontare che è stata una soluzione. Dopo vi faccio sentire cosa ha detto Ausilio prima della partita. Ciccio, ti ringrazio e ti lascio. Ciccio. Al tuo pomeriggio dolente, immagino. Sì, vi abbraccio. Forte. Ti abbraccio, okay, ciao. Okay, c'è il traffico. Ciao. Sì, 800-24-0024. Saluto Massimo da Rimini. Massimo, sì, io vorrei però aspetta, esatto, c'è il traffico, poi ripartiamo da te. Traffico. Tutti convocati. De Boer a Milano vuol dire che sei di burro, sa me che dura poco quello lì a Milano solo, eh? Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta convocati. Fortunatamente conta il pensiero della società. La società la pensa in un modo diverso, pensa che De Boer abbia bisogno di tempo, pensa che De Boer stia facendo comunque un buon lavoro e stia trovando pian piano quella che è un'identità di squadra. È ovvio che dobbiamo anche vincere le partite, perché poi conta questo e conta soprattutto migliorare la classifica. Questo Ausilio prima della partita ha detto anche che De Boer meritava più rispetto mediaticamente. Io so che tanti tifosi dell'Inter sono convinti che De Boer sia al centro di una guerra degli amici di Mancini per farlo fuori. Follia assoluta. Non so semplicemente quali l'Inter è allenata sono gli male. Amici di Mancini. Tutti i giornalisti. 800-24-0024. L'opinione pubblica anche, non mi sembra. Anche quelli che hanno detto che il primo tempo di oggi è stato inguardabile. Massimo da Rimini, Massimo. Sì, è perfettamente vero che è stato inguardabile. Tra i giornalisti contrari sicuramente c'è lei, signor Genta. Si sente chiaramente da come si esprime, perché poi quando chiamate i cosiddetti tifosi VIP, quelli che avevano i biglietti gratuiti in tribuna, adesso non ce li hanno più, chiaramente. No, ma non li avevano da Mancini, però. Opinione contraria nei confronti di chi? Mancini ha lasciato un mucchio di macerie. Sì. Mancini ha lasciato un mucchio di macerie. Ah. Quindi confrontare De Boer ad Allegri è un nonsense. Questo qui è, secondo me, l'unica cosa che si può dire. Mancini ha lasciato uno sfacelo alle sue spalle. Cioè, in un anno e mezzo ha distrutto tutto. No, non ha distrutto tutto. Però lei mi deve dire che cosa ha lasciato una squadra che nella seconda parte del campionato scorso è stata inguardabile. Sì, ma su questo non c'è dubbio. La prima parte del campionato scorso tutti dicevano che Mancini aveva avuto culo. Nella prima parte del campionato l'Inter vinceva 1-0, va bene. Esatto, poteva succedere oggi perché abbiamo avuto le occasioni del 2-1 e poteva perfetto cambiare. Invece non è successo. Però non è successo. Molto bene. E allora io fossi un dirigente... La buona fede è un'altra cosa. Sì. Dica Massimo. No, ma tanto ci ascolta Pierpaolo Marino. Prego. Mi deve scusare se mi sto alterando. Si alteri pure quanto vuole, è divertente. Non c'è problema, siamo amici. De Boer, che è sicuramente una persona rispettabilissima, doveva avere l'umiltà di non toccare quello che aveva lasciato Mancini. Lei mi deve dire cosa aveva lasciato Mancini nella seconda parte dell'anno scorso, insomma negli ultimi mesi. Quindi per un anno e mezzo Mancini non ha combinato nulla. Cioè non ha costruito nulla. Mancini, se avesse allora avuto... la giro così. Guardi, grazie Massimo, intanto. Massimo, gliela giro così. Io prendo un tecnico italiano e italianista che mi disegna una squadra in modo semplice, comprensibile, magari non bello, non attraente, e cerco di, con la qualità che ho, perché l'Inter ha qualità, e con il gioco dei poveri di costruirmi una classifica decente e di crearmi una base di lavoro per il futuro. È inutile chiamare un allenatore che viene dall'Olanda, che può essere bravissimo, magari diventerà il nuovo fenomeno del calcio mondiale, però è stato un azzardo colossale e clamoroso che l'Inter sta pagando in termini di punti di classifica. Pierpaolo Marino, ciao direttore, buonasera. Ciao, buonasera. Dai, a tutti. Poi leggo qualche messaggio via WhatsApp. Andiamo dritti al punto. Certo, il Napoli ha vinto, eh. Napoli si è riscattato 2-1, Gabbiadini follia, espulso. Secondo me questo cambia molto della sua stagione. Poi vediamo anche di parlarne. De Boer merita ancora tempo o no? Tempo, come diceva Ausilio prima della partita, l'abbiamo sentito, oppure ci sono poi le evidenze del campo? No, secondo me di tempo gliene hanno dato fin troppo, onestamente, perché io oggi ho visto gran parte di Atalanta-Inter e devo dire che l'Inter è una squadra senza gamba, col passo lento, non ha un filo di filosofia di gioco e soprattutto dei giocatori che sono vuoti nella testa. Cioè, ognuno al di sotto del proprio standard. Un direttore sportivo, se dovesse mettere mano a questa squadra, tu lo cacceresti o no? Ma assolutamente. Cioè, ma il problema è quando i dirigenti fanno un errore, perché l'errore si fa quando lo si prende un allenatore a 10 giorni dal campionato e straniero che deve essere proiettato, poverino. Però ora prima lo si manda via e più l'errore è meno grave. Sì, quindi Pierpaolo, grosso modo, sei d'accordo con me, tu prendi un allenatore italiano-italianista, faccio il nome di Prandelli, ma è un nome semplicemente esemplificativo. Sì, per dire uno che era libero. Uno che era libero e ti disegna una squadra magari in maniera elementare, tanto per cominciare, e poi su quello costruisce qualcosa. Non sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, secondo il quale in un anno e mezzo Mancini ha lasciato solo carta straccia, qualche idea l'ha lasciata. Direttore, allora riparti da quelle idee, no? Hai assolutamente ragione, io avrei preso Pioli. Pioli, va benissimo. Sì, perché comunque un allenatore abituato anche a lavorare in grosse piazze, perché la Lazio è sempre una squadra della capitale, e poi comunque un pragmatico, e quindi danni non te ne fa. Cosa ha lasciato Mancini? Sì, è vero, Mancini ha fatto l'errore di voler fare il manager assolutistico, questo è stato il suo errore, perché poi si sbaglia sempre nelle campagne acquisti, e se sbaglia l'allenatore è più grave che il direttore sportivo, allora, perché fa più danni economici, in quanto costano di più i giocatori che vuole l'allenatore. Però Mancini ha fatto 1,70 e passa di media. Sai a quanto è De Boer? 1,22. La proiezione di De Boer su tutto il campionato, per carità, so che conta, quello che conta è 46 punti. E l'obiettivo che gli hanno messo è di andare in Champions League. Sai la Roma con che media punti? Sì, ne servono quasi. No, la Roma ha fatto 2,10. La Roma ha fatto 80 punti per arrivare terza, 80 punti per arrivare ai preliminari, 2,10. 2,10, quindi il doppio di quello che sta facendo De Boer. E quando lo recupera? Cioè, ma poi non so se voi avete visto la partita, ma la visione della squadra è imbarazzante. No, primo tempo assolutamente, l'abbiamo detto, assolutamente inguardabile. Secondo me è anche inascoltabile quello che abbiamo sentito. Ne abbiamo sentito un minutino e mezzo, poi andiamo a recuperare qualche altro passaggio. Ma tutte le volte De Boer parla di pezzi di partita non giocati. Ne parla come se fosse uno che passasse di lì. Guardate che nessuno ce l'ha con De Boer, però oggi questa è la lettura dei fatti, almeno dal nostro punto di vista. Sì, sì, ma De Boer purtroppo è il marziano che viene paracadutato sulla terra, cioè lo capisco pure, noi stimiamo il calcio olandese da secoli nei secoli, però in realtà il campionato olandese è l'espressione di 3 squadre importanti e che poi in Europa non fanno sfraceli, quindi questo è il livello, e di tante squadrette che ne beccano 5 o 6 ogni partita. Quindi le altre sono da C, quindi quando arrivi terzo o quarto nel campionato olandese è come se arrivassi ultimo, cioè faccio per dire, quindi quando vinci uno scudetto non è che se hai vinto lo scudetto in Spagna o in Germania, sì, o in Inghilterra, è tutt'altro ambiente. Abbiamo un minuto, direttore, mi dici se ti è piaciuto il Napoli di oggi? Anche il Napoli oggi obbligato a uscire dalla crisi. Crotone, onestamente, squadra che mi pare per caso in Serie A, e mi spiace per i tifosi calabresi. No, il Crotone era più forte l'anno scorso che quest'anno, hanno sbagliato completamente la campagna acquisti, non si fa una campagna così per fare la Serie A, però mi dispiace perché sono amici quelli del Crotone, doverlo dire, però il divario tecnico era così grande che se anche ci fosse stata un'altra espulsione nel Napoli la partita sarebbe finita sempre a vantaggio degli azzurri. La cosa bella è stata di Awarra che è finalmente giocato dal primo minuto e ha dimostrato di essere un ottimo acquisto, e naturalmente l'episodio di Gabbiadini è quello che rovina un po' la giornata, perché da un ragazzo così non ci si aspettava un'ingenuità del genere proprio nel momento suo. Sì, però io posso dire, direttore, una cosa: se tu dopo l'infortunio di Milik sei l'uomo, fai male mezza partita, finisci in panchina, poi di nuovo torni titolare, insomma io credo non sia nemmeno semplice mantenere equilibrio psicologico. Capisco che deve farlo, mi rendo conto, però sì, mi sembra che sia anche il contesto che non lo sta aiutando. Sì, ma tutte le giustificazioni possibili e immaginabili, però non doveva succedere perché è il momento suo e ora si è fatto da fuori da solo per la squalifica per chi avrà, e quindi probabilmente farà la Juventus. Sì, assolutamente, e quindi probabilmente si sarà giocata questa carta importantissima di essere il giocatore che rilanciava il Napoli in questo momento. Però la squadra ha fatto quadrato, e ora naturalmente è inutile cullarsi per una vittoria sul Crotone, cullarsi sugli allori, bisogna confermarsi nel prosieguo. Grazie, direttore. Sarri dovrà continuare col turnover, cioè Oggi ne ha cambiati sei rispetto a Napoli-Bisiktas. Il caso di Awarra comunque ha dimostrato che la strada di utilizzare i nuovi acquisti è giusta. Grazie, direttore. Ciao direttore. Buonasera, ciao Pierpaolo, grazie. 800 24 0024, De Boer è una persona civile, i giocatori dell'Inter no, ci vuole un management italiano, i cinesi devono solo mettere i soldi e chi sbaglia deve andare a casa. Sto leggendo alcuni messaggi che sono arrivati via WhatsApp. C'è chi dice: dovete dire che il Milan ha 10 punti in più per fortuna, Paolo, ma figuriamoci, comunque per dopo fortuna. Parliamo solo per fortuna, dopo parliamo comunque anche di quello che abbiamo visto ieri sera. De Boer penso che non sia un cattivo allenatore, ma sicuramente gli hanno affidato un incarico per il quale sinceramente non è all'altezza. Questo è un altro amico, e poi insomma via via vi aspettiamo. 349-238-6666 oppure 800-24-0024, prenotatevi per intervenire in diretta. Arriviamo subito. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Convocati. Allora, sta parlando Sarri su Crotone Napoli 1-2, poi andiamo a sentire la parte centrale. Ci sono le proteste della Lazio per il rigore che ha consentito al Torino di pareggiare al 92esimo, rigore su cui c'è da discutere perché Parolo, è vero, la colpisce col braccio che è un po' largo, ma è praticamente girato di schiena, materiale per la moviola. In un fine settimana in cui, e poi ne parliamo, c'è tanto da discutere anche di arbitri, di tecnologia. Oggi in Empoli-Chievo è successo qualcosa di strano, con i giocatori del Chievo che non si fidavano della chiamata della Goal Line Technology, e non è detto che avessero torto, anche se forse alla fine non era gol, come ha detto la macchinetta, ma c'è il sospetto che quell'immagine, il pallone, fosse stato fermato un frame dopo. 800-24-0024, Gianni da Firenze. Gianni. Sì, buonasera. Eccoci. Io volevo dire, secondo me il male dell'Inter è uno solo, secondo me. Sì. Mancini, perché lui in 2 anni è stato all'Inter, ha lasciato soltanto un gran caos. Sì. Ha fatto spendere miliardi, ha prosciugato le casse della società e non ha dato che stessero benissimo nemmeno prima, le casse, e però non ha dato un'impronta di gioco. Inoltre volevo anche dire una cosa su questo Icardi, questo gran fenomeno di Icardi. Lui non mi sembra così risolutivo per la squadra, no, cioè, che cosa ha dato lui all'Inter? Lui pensa di essere, non lo so, vende libri, deve essere una star, però non so che cosa, quale coppa ha vinto, quale... No, per carità, però in questo momento è l'unico che l'ha tenuta su. Quanti gol ha dato all'Inter, allora, quest'anno? Oggi manco manco fosse Maradona. Sì, ma oggi deve essere un mezzo dio. Però sei gol, sei oggi, gol non quest'anno sono, sei. Al momento oggi, oggi Icardi festeggiava la centesima partita con la maglia dell'Inter. In 100 partite ha fatto 53 gol. Ora non mi, non sembra, mi sembra proprio una brutta media, una brutta ragazzi. Media per un attaccante. Poi per carità, per una squadra che negli ultimi tre anni è stata in difficoltà. Per me lui è il colpevole del casino nato con la storia del Libro. Per me quindi no, ma no, comunque, non lo difendo. Però dire che secondo me i problemi dell'Inter sono tutti Icardi, non lo so. Gianni, è caduto Matteo da Verona. Matteo. Sì, buon pomeriggio a voi. Eccoci. In studio, a tutti gli ascoltatori. Niente, solo per dire che sono d'accordo sì. con il dottor Genta in merito che assolutamente Mancini ha lasciato un quarto posto, nonostante insomma fosse abbia fatto anche qualche errore pure lui. E solo un'altra cosa, che l'ultimo allenatore che mi ricordo che è andato nello spogliatoio, ha mandato a quel paese a destra e a sinistra, fu Lippi, quando mandò insomma ne disse di tutti i colori dicendo a Reggio Calabria si fece praticamente esonerare fuori, insomma sì qua, a Reggio a Reggio Calabria quell'episodio sì. avvenne a Reggio Calabria dopo la partita con la Regina e praticamente Lippi si autoesonerò sì. in quel giorno e no è così, questa è la storia sì, secondo sì, me ci vuole giustamente un allenatore italiano con i cosiddetti sotto, un Kosmic di ultima generazione che entra sì, nello spogliatoio, dice alla società, dice fatemi lavorare, però come dico io, chi merita gioca, chi non merita non sì, gioca, sì. che si chiama Icardi o che si chiama insomma Ranocchio. Ma io a fin prova contraria sono Cosmi, non sono Kosmic, però a Trapani le cose non stanno andando proprio bene. No, è ultimo bene. Tra l'altro in questo momento, il nostro amico Ma Sesso. Io faccio sono molto contento perché voglio dire sì. al gentile ascoltatore che ha capito pensano, molto. Sì. Pensano, bravo sì. complimenti bene, magari bravo. Poi che ci citazione. Accordiamo anche sul prezzo. Ma, Matteo da Verona poi ti guarda, giriamo guarda, Giovanni questo qua che sta parlando sì, cioè, Gasperini l'unico con la media punti era, inferiore era a uno che all'Inter c'è passato che sarebbe stato un allenatore perfetto ma insomma aspetta, lo chiediamo a Enrico Bertolino sì. ciao Enrico ciao, oggi convocati sera. Tutti i tifosi dell'Inter in questo psicodramma tra l'altro a rendere più duro il pomeriggio degli interisti per chi riconosce c'è Mourinho che dopo mezz'ora è sotto 2-0 contro Conte, Chelsea 2 Manchester United 0. Brutta cosa. Enrico, che bisogna fare con De Boer? Dai. No, io più che De Boer, io come De Bortolino posso parlarvi come suo fratello gemello, cioè, catapultato in una realtà che sì. non è la sua, venendo da una squadra di giovani che, a cui non viene chiesto niente se non di perdere lo scudetto all'ultima giornata, come ha fatto con l'Ajax negli ultimi due anni. E oggettivamente non può fare granché una squadra che non ha costruito sì. non ha costruito, però adesso volendo vedere anche ripartire da un da altri allenatori lo trovo folcloristico, c'è tanto l'annata è quella che è, piuttosto vedere se già scusa Enrico la buttiamo già via il 23 di ottobre? Dobbiamo buttarla via, nel senso che il 14° posto, quello che sarà, è un'annata di rimonta nella quale dimostrare che puoi fare qualcosa ugualmente. Ragazzi, un anno fa, fra una settimana, la Juve era 14°. Ha vinto no, lo scudetto. No, ma però se c'è dietro un progetto tutto va bene, cioè si può anche perdere per un rigore o di un'ingenuità, va bene, ma anche un pareggio da un punto a zero punti non cambia granché. L'importante secondo me, dico il precedente intervento, è fare una lista di chi è da Inter e chi no e vedere a gennaio di fare. Dai, allora falla, dai, buttami giù tre dalla torre e tienine tre ma che no, assolutamente io, cioè, sono da Inter. No, dai, sono da tifoso, tecnico, con l'animo del tifoso. Non faccio il tecnico, faccio il comico, però a volte i comici diventano seri, cioè come diceva Petrolini, un comico mica da ridere, no? Sì. Guardando gli ultimi minuti, perché purtroppo, o per fortuna, ho visto soltanto l'ultimo quarto d'ora e mi è bastato, cioè una squadra deve fare i conti su chi ha le caratteristiche tecniche, ma anche morali per sopportare, perché poi si torna a San Siro, ogni volta che torna a San Siro chi tocca un pallone sbagliato viene fischiato e massacrato. Bisogna vedere di fare una lista con qualcuno che ha deluso e mettere a bilancio una passività, tipo con Dogbia una passività nettamente, e decidere che poi a gennaio lui, Jovetic o altre persone vadano, Eder, la fattispecie con tutto il rispetto e l'amore. Eder oggi ha fatto un gol straordinario. Sì, ho capito, può fare un gol straordinario, secondo ma poi gol dopo in si 10 riaccomoda. Mesi esatto, sì. il secondo gol in 10 mesi. Bisogna poi che ognuno si riaccomodi nella posizione giusta e decidere che squadra fai. Una delle opportunità che il Milan ha sfruttato è quella di mettere dei giovani in campo che poi si rivalutano e diventano anche un capitale sociale. Secondo me poi i calciatori sono anche un capitale sociale. Certo, guarda, ti leggo questo messaggio. Io sto con De Boer sempre, cari Genta e Co. siete solo dei quacquaracqua banali. Banali, io segnalo che oggi c'è stata la seconda panchina completa di Banega, che doveva essere il centro del progetto. È quello un punto sul quale discutere. Se tu risparmi un giocatore durante la partita della settimana, il problema è anche di avere una grande rosa piena di nominativi. La Juve lo sta affrontando in maniera diversa in altre posizioni. Quando hai una panchina piena di nomi, ma che però poi non mettono in campo anche l'agonismo, è meglio Calabria e Locatelli. C'è un po' di invidia per quello che è il Milan oggi. No, c'è l'osservazione semplice delle cose. Peraltro io poi spero che nel derby uno possa avere una reazione emotiva che ti permetta magari di rimettere le cose nella giusta misura. Però oggettivamente ci sono alcuni giocatori che non possono giocare con quella squadra perché non hanno le caratteristiche tecniche, ma soprattutto morali e caratteriali. Perché quando scendi in campo a San Siro ti basta un pallone veramente sbagliato. Ci sono persone, calciatori che hanno pagato questo caro e possono andare a giocare altrove. Sono tantissimi, l'ultimo era Nokia. Alcuni sono andati a giocare altrove e hanno poi fatto meglio, quantomeno, di quanto facevano da noi. Allora, mettimi una lista e poi proponerla. Se la società ti dice, no, guardi, mi spiace, ma facciamo a modo nostro, a quel punto è uno che fa le sue valutazioni. Dice, vengo qua, non solo non voglio mangiare il panettone, ma rinuncio alle caldarroste. C'è anche chi dice... Ma qui non se ne va nessuno. Appena uno arriva in Italia, se andasse valutato veramente, non arriverebbe ai dolcetti di Halloween. Ha scritto prima un amico. Esatto. Se tu telefoni a Oscar Giannino, lui lo sa, sì. Che è un collega carissimo, e dice, qui è un paese dove non si dimette nessuno, e chi arriva qua poi matura questa decisione. Lui direbbe basta, se tu metti Mancini nella sua onestà, Mancini è onestà intellettuale, però ha detto, vabbè, se non vi piace il mio modo di lavorare, mandatemi via. Liquidatemi, ci mettiamo d'accordo sui soldi e poi vediamo. Però questa cosa qua rimpiango persino Enrico con la gabbia, perché Enrico fece la gabbia, però poi a un certo punto decise che se ne andò e lasciò sul piatto anche la differenza. Non basta essere imprenditori per fare una buona società, bisogna avere gli ottimi uomini. Questo lo dico in tempo, proprio perché parlo a Radio 24, no? Bisogna essere persone capaci di mettere insieme una società, di dare ai calciatori anche un codice che non sia solo etico ma anche comportamentale, e capire perché uno come Gabigol, per esempio, sia stato preso per essere lasciato lì a svernare. Guarda, questa è una delle grandi domande a cui noi qualche risposta poi, abbiamo provato a darla. Abbiamo il traffico, Enrico, sì, dimmi. Da questo punto in qua in poi però dico a De Boer, cioè, che se io venissi messo da domani a fare uno spettacolo all'Opera di Parigi avrei grossi problemi, così come al Madison Square Garden è pieno, oppure a condurre una serata del Saturday Night Live. Bisogna essere anche all'altezza. Grazie Enrico. A voi. Ciao Enrico. Grazie Enrico Bertolino. 800 24 00 24, processo che resta aperto fino alle 19, poi dopo il GR delle 18 arriva anche Pierluigi Pardo. Sì. Adesso però la mettiamo lì, l'altro tema di questa giornata. Bisogna migliorare mucho. Come se fuera esta partita la ultima vez. Sì, ma magari è l'ultima vez. Traffico, torniamo. Sì. Tutti convocati. Ci impegniamo, parli, grida, smadonni, ci rompi i coglioni. Fai. E a noi? Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... convocati. Parte un cross, attenzione, rete diretta di Pjanic. Protestano tutti con Rizzoli, c'era forse il fuorigioco. Benatia era il giocatore che era in posizione irregolare, Bonucci mi è parso di no. C'è anche Massa. E il gol viene annullato. Dai, parliamo anche di Milan-Juve, poi avremo modo di discutere di tutti gli aspetti positivi visti del Milan dei giovani, Locatelli, Donnarumma, straordinario. Ho visto un fermo immagine, Donnarumma sull'ultimo balzo sul tiro di Khedira, tempo scaduto, è saltato di un metro. Giocatore eccezionale, straordinario, predestinato, ditelo voi. Fammi fare il malizioso, oggi staranno zitti quelli che dicono che parlano normalmente di Rubentus, no? Ma non lo so, Massimo Zampini, ciao Massimo. Ciao, non staranno zitti, no, non stanno mai zitti quelli. No, non stanno zitti. Ciao, buonasera a tutti. Senti un po', che è successo ieri? Cioè, come la prende il tifoso della Juventus? Allora, io ti dico la mia. Mettersi a fare il ragionamento, il gol di Muttari, il gol di Pjanic, è un non senso, perché poi va considerato il contesto e tutto il resto. Però onestamente l'errore di ieri di Rizzoli è inspiegabile, ma non tanto la chiamata in sé che si poteva sbagliare, l'idea che ci torni su per due minuti. Ma guarda, per me intanto come è andata ieri, è andata che la Juve ha giocato secondo me benino fino al gol annullato e poi man mano è un po' sparita, non che il Milan abbia fatto molto, però con grinta, carattere, una squadra molto giovane e divertente anche nel suo spirito positivo e tutto, e alla fine ha vinto con quel grande tiro di Locatelli che apprezziamo poi tutti. Questo è la storia della partita. Poi se tu mi chiedi dell'errore, ti dico certo, la procedura è un po' bizzarra, diciamo che quando è successo in altri campi che avessero annullato un gol contro la Juventus per qualche protesta eccetera eccetera, così ne abbiamo parlato poi per non so quanto tempo e ancora nell'immaginario collettivo, quindi cosa è accaduto non lo so. Di certo per me Rizzoli può sbagliare con qualunque procedura. La cosa un po' bizzarra ai miei occhi sono le prime pagine di oggi rispetto alle prime pagine di volte in cui la Juve dovevano scrivere cosa, dai, riscriviamo le prime pagine. Per me le pagine giuste sono quelle di oggi, cioè dire Milan boom, così si fa, grande Milan, anche tutto sport. Cioè, io il calcio lo vedo così personalmente, non conta nulla, un errore, la Juve aveva 60 minuti per segnare, non ha fatto più un'occasione. Io la vedo così, non pretendo rappresentare il tifoso juventino. Quello che non mi sta bene è che poi io posso farvi una carrellata che ho e che domani sul mio sito Juventus magari farò. Sì. Di prime pagine post errori in cui è stata avvantaggiata la Juventus. Dai, e campionato falsato, Juve non si può così. E questo rimane l'unico vero, secondo me, doppio pesismo, non certo quello arbitrale che a me interessa poco, ma quello mediatico, e rimane un doppio pesismo. Ma secondo te c'è un po' l'aria di dire meglio se la Juve cade che insomma abbiamo un campionato? Questo in qualche modo prevede un disegno cui io non credo. No, ma dico a livello di Massimo, di opinioni pubbliche. Massimo, no, Massimo, metti il cuore in pace, la Juventus vincerà lo scudetto. Poi ha lasciato 6 punti a anche San Siro. Anche perché non gioca più a Milano, eh? Esatto. Ha lasciato 6 punti a San Siro, però dai, facciamo i seri. Si corre per il secondo posto, poi fai tutti gli scongiuri che vuoi. No. Dopo 5 scudetti possono anche non fare grandi scongiuri, anche se non vince uno, va bene. Personalmente sono spaventato da quegli juventini, io come tutti voi, ho le chat tra tifosi, amici, così, che considerano scontato lo scudetto. Per me non c'è proprio nulla, ma non per scaramanzia, perché i campionati sono così, ne perdi una, ti si fa male Dybala, salta delle partite, vai Juve-Napoli, Juve-Samp. I campionati sono infiniti, non è che basti comprare Higuaín per vincerli, se no sapremo sempre chi lo vince. Siamo d'accordo, però la Juventus è nettamente la squadra più forte, più profonda, più talentuosa, più completa dello stagno. Sì, dai, non possiamo rimangiarci quello che abbiamo detto per un mese e mezzo. Aspetta lì Massimo, Andrea da Torino. Andrea. Buongiorno, buon pomeriggio. Dai, rapido. Allora, velocemente volevo dire, uno, se c'è la moviola in campo, perché ieri a me mi sembrava che ci fosse la moviola in campo. No, non c'è la moviola in campo, no, però prego Andrea. Non lo dicono, ma è così. No, ma non è così, allora, ieri hanno fatto tutto loro, però prego Andrea. Se non è così è pazzesco, perché 2-3 minuti una cosa del genere, ormai succede solo quello, però ultimamente, una volta non succedevano queste cose. Vabbè, lasciamo perdere quello, che secondo me è pazzesco. Quando riguarda la Juventus, nessuno dice che ogni anno la Juventus cambia 3-4 giocatori il povero Allegri deve ricominciare tutto da capo. Ormai il centrocampo in 2 anni è stato cambiato tutto. Sì, ne ha cambiati 16 da Berlino in poi, però povero Allegri, sì, Massimo, però, onestamente. No, però ragazzi, pezzi pregiati che vengono inseriti su un telaio già esistente. Allegri, non mi non sento è rivoluzione, di sottoscriverlo. Massimo, io. Lo sottoscriviamo, lo accendiamo, povero Allegri o no? Povero Allegri no. Poi ci vuole tempo anche per Allegri, non va neanche detto che Allegri debba per forza vincere ogni anno, sennò poi è un fallimento che è sempre complicato. Però povero Allegri no, ha una rosa importante, grandi cambi. È vero che il centrocampo pian piano forse andava un po', ma loro lo sapevano, tanto che avevano visto in sede fino all'ultimo giorno, ci hanno provato. Poi succede che non si riesca a prendere. Però, diciamo, quando i tifosi juventini spesso mi dicono ma Pirlo ha praticamente smesso di giocare, gli altri due sono Vidal e Pogba, per carità, sostituiti con Pjanic. Non è che proprio siano zero, ora non saranno forse i migliori del mondo, però c'è di peggio al mondo, di avere Chiedira, Pjanic e teoricamente Marchisio. Poi, chiaro, Marchisio deve ancora tornare, aspettiamo che sia pronto. Sì, Juve che ha bisogno, credo, assolutamente di Marchisio, perché i problemi sono lì. C'è chi scrive: la Juve ha sottovalutato il Milan, poi ne ha avuto paura. A me è sembrato che la Juve abbia iniziato col piglio giusto. Poi, sì. Poi è vero che la Juve in questo momento è una squadra imperfetta, è vero anche che ha 21 punti ed è prima in classifica, e questo è un dato oggettivo, visto che abbiamo cominciato con i numeri, e i numeri sono il filo conduttore quando si comincia a leggere la situazione di una squadra. Grazie Massimo. Ciao, grazie, ciao, a voi, buona serata. Ciao Massimo, grazie. Ciao. Buonasera. 00240024. Sì. Beh, vi siete dimenticati di dire la cosa più importante, cosa? Sia lei che Genta. Sì, se il Milan ha vinto contro la Juventus, lo dobbiamo a Montella. Sì. Perché ha fatto tutto quello che gli ho detto io. Ci mancava, mancava. Ed è l'ultima volta, così, che è l'ultima volta che è l'ultimo Milan Juve con Berlusconi. Che l'ultima volta che lei dirige, io dirigo sempre il Milan, l'ultima formazione, e per questo è fatta, abbiamo Berlusconi. Un'ottima organizzazione di c'è il GR, torniamo, arriva anche Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, Rizzoli, Milan Juve, il processo all'Inter. Cribio. Capo Hans, sì, sto arrivando, anche il signor Genta, per tutti i convocati weekend. 800 24 00 24. Ciao Bardo, ti voglio bene. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Convocati. E qui in Atalanta è sempre difficile perché molti duelli nel campo normalmente, e specialmente il primo tempo, noi abbiamo giocato solo Atalanta, io ho detto in riposo. Il secondo tempo era molto migliore. L'inizio della partita, e per me, noi abbiamo giocato bene. Io ve l'ho fatto risentire, De Boer ai microfoni di Mediaset Premium. No, è proprio quello originale a Sky, non ce l'abbiamo, ma ve lo dico. Sì. Incalzato sull'ipotesi dell'esonero, ha detto: io lavoro duro, ma non so se mercoledì Inter Torino sarò in panchina. E quindi aggiungo anche questo tema. Saluto subito Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao Pier. Come va? Beh, insomma, oggi c'è materiale di cui discutere. Dai, dimmi anche tu, l'abbiamo chiesto a tutti, tempo scaduto o no per De Boer? Ma io ribadisco quello che dico da un po'. Cioè, prendi De Boer, lo scegli, forse io non l'avrei presa. Avevo dei dubbi prima, cioè io a maggior ragione adesso, ma non lo puoi valutare sui due mesi, forse non so neanche due mesi. Quindi secondo te ha ragione Ausilio prima della partita, vediamo cosa ne pensa poi, però prima della partita ha detto sì, la società vuole dare tempo a De Boer. Sì, io sono d'accordo. Detto questo, è una scelta sbagliata ab origine, no Pierluigi? Però si può anche riparare a un errore, si può anche riparare, lo diceva Pierpaolo Marino. Pier, ma io ribadisco, però se prendi De Boer non lo prendi secondo me, cioè era da illusi prendere De Boer e pensare che in 30 giorni con la tacchetta magica resuscitasse l'Inter, era proprio una cosa secondo me impensabile. E poi insomma, certamente qualcosa di meglio era lecito pensarlo, e quindi sicuramente possiamo, non c'è. Ma possiamo dire, Pierluigi, che è stato un errore strategico di Toir, perché è lui che ha deciso in fondo. Sì, ma quello è il passato. Allenatore. Oggi cosa si fa? Siamo al 23 di ottobre, l'Inter è tredicesima in classifica. Salutiamo insieme Pier Giuseppe da Gerenzano. Salutiamo Giuseppe da Gerenzano, che ci dà degli sciacalli da Bar Sport, perché parliamo dell'ipotesi dell'esonero di Boer. Sì. Di cosa dobbiamo parlare? No, parliamo anche che il Bologna è in vantaggio, è 1-0 col Sassuolo, 9 minuti ha segnato Simone Verdi. Prego Pier. Sì, no, ma parliamo, non lo so, di Empoli-Chievo, non so di quale partita una partita dove non ci sono tempi polemici, se volete, se parlare di De Boer significa essere sciacalli, allora parliamo di Empoli Chievo. Domani ne parli in tiki-taka di Empoli Chievo? No, sì, faccio tutta la puntata. Ma con grande rispetto, no, ma per carità, e col Chievo, monotematica, un grande campionato tiki-taka monotematico su Empoli Chievo. Mi sembra una grande idea. No, è che poi alla fine, capito, ogni volta sempre qualcuno che si dice: siete voi giornalisti che fate polemica? No, sì. Noi, no, polemica, noi ci occupiamo mediamente, poi ognuno lo fa, poi certe volte si sbaglia, per carità, ma credo con onestà intellettuale, mediamente con onestà intellettuale, ci occupiamo delle cose che sono più interessanti, e indubbiamente in questo momento che è una grande squadra, un budget così, sia in enorme difficoltà, che ci sia riposto l'allenatore, ma venga mandato via, credo che sia una cosa possiamo parlarne. Vi faccio sentire al volo, Sarri, dopo la vittoria a Crotone 2-1 su, come l'ha definita Pierpaolo Marino, l'unico lato oscuro del pomeriggio, cioè l'espulsione di Gabbiadini. Lui caratterialmente è un ragazzo un po' introverso, un ragazzo un po' chiuso, in questo momento è sempre al centro delle discussioni e non penso l'aiuti assolutamente. Un ragazzo avrebbe bisogno di serenità, perché la sua indole è quella, e invece si trova sempre coinvolto in discussioni. A volte mi vengono fuori domande su Gabbiadini completamente inventate, mi è stato chiesto del colloquio privato, quando io non avevo fatto nessun colloquio privato, quindi stanno venendo fuori cose assurde, e questo ragazzo, conoscendolo caratterialmente, non l'aiuta sicuramente. Deve solo tranquillizzarsi, pensare al campo, non ascoltare nessuno, e siccome è un giocatore forte, tornerà a fare il giocatore forte. Questo Sarri, io Pier l'ho detto prima, anche Sarri secondo me non aiuta Gabbiadini. Bravo, dentro fuori. Magari un colloquio privato sarebbe stato necessario tra i due. Anche qui non è che i giornalisti sono cattivi e chiedono a Sarri di Gabbiadini perché c'è un accanimento. Chiedono a Sarri di Gabbiadini perché Gabbiadini è un attaccante nel giro della nazionale, è un buon giocatore. Legittimamente Sarri fa le sue scelte, cioè l'altro giorno per esempio la tenuta in panchina con Besiktas ha fatto una scelta assolutamente legittima, che rientra non solo nel diritto ma anche nel dovere di un allenatore, che è quello di scegliere la soluzione per lui migliore. Però è normale che si parli di Gabbiadini, e io penso che nella situazione psicologica di Gabbiadini ci sia anche il fatto che Sarri non lo considera assolutamente un punto fermo, nemmeno dopo l'infortunio di Milik. Del resto, se tu fai tutta l'estate praticamente venduto sul mercato, magari no? No, ma io magari ti innervosisci, Pier, no? Ti innervosisci. Se a te prendessero a media, se tu un altro cercassero in tutti i modi di prendere un altro conduttore, un po' ti innervosiresti. O no? Quindi io penso che dietro al nervosismo di Gabbiadini ci sia anche il fatto di non essere un punto fermo, nemmeno adesso che Milik è partito. Il che poi può essere anche giusto, nel senso che poi alla fine io non ho un'idea certa sul fatto che Gabbiadini debba essere titolare sempre e comunque, oppure che non debba esserlo. È un dibattito aperto, perché sicuramente l'ipotesi del falso 9, visto che in quel reparto lì il Napoli è diventato improvvisamente corto dopo l'infortunio di Milik, il fatto di ruotare adattando Mertens come punta centrale è un'ipotesi, non è un'eresia, quindi ha perfettamente pieno assoluto diritto di poterlo fare Sarri, però insomma è chiaro che nel momento nel quale lo esclude per esempio dal match contro il Besiktas non gli fa un regalo. Certo, quell'altro non sia contentissimo. Però mi pare che strutturalmente il Napoli sia una squadra che abbia bisogno di un punto di riferimento offensivo. Non è più Higuain, doveva essere Gabbiadini, non mi sembra una squadra costruita per giocare, ha bisogno di un 9 come tutte le grandi squadre, compresa la Roma, che ha rivitalizzato Dzeko. Io lo so che siamo in ritardo sul traffico, poi abbiamo Demetrio Albertini su Milan-Juve, prima però voglio fare velocissimi Giacomo da Pesaro e Andrea da Forlì, 800 24 00 24, dai Giacomo. Sì, salve, due considerazioni veloci. Allora, la prima è che io a fine mercato dicevo che secondo me la Juve si era indebolita, invece tutti voi avete detto che la Juve si era rafforzata, ma è tutto da vedere, comunque poi sento la vostra opinione. E in più, in un'ora e passa di trasmissione, mi sarebbe anche piaciuto sentire che al 92esimo sull'Inter c'è stato un gol annullato, sì, che era regolare. Lo chiede un amico, perché era regolare, a mio parere era regolare. Rispondo anche al messaggio che è arrivato, stiamo parlando del gol annullato di Icardi per presunta carica sul portiere. Hai ragione Giacomo, era molto probabilmente un gol buono, però questo prescinde poi dal giudizio della prestazione. Andrea da Forlì, dai che poi andiamo in traffico, poi Pier rispondi a tutti e due. Andrea, sì. Sì, buonasera a tutti. Bertolino ha visto l'ultimo quarto d'ora, io ho visto il primo quarto d'ora. Sì. Noi interisti siamo così, dobbiamo assumere l'Inter a piccole dosi e soprattutto stomaco vuoto. Soprattutto stomaco vuoto, perché è un'indecenza. De Boer, via subito, perché due mesi non abbiamo visto niente, abbiamo visto un quarto d'ora contro l'Empoli e la partita contro la Juve. Non si è visto niente, non si vede la luce, e quando non si vede la luce è buio pesto. De Boer via subito per non fare altri danni. Al buio si per va a non fare altri danni, stanno facendo dei danni. Pier, sta, sta grandinando. Sì, Pier. Sì, no, sul gol assolutamente il gol era buono, come parzialissima attenuante, che conta poco. C'è il fatto che sappiamo che in quel tipo di situazioni c'è grande, grande protezione nei confronti del portiere. Cioè, quel tipo di episodio è un episodio dove mediamente i portieri vengono aiutati a prescindere. In realtà il contatto lì non c'è, quindi poi alla fine, vedendola con l'ausilio delle immagini, è sicuramente gol buono. Però diciamo che nella giurisprudenza complessiva sappiamo che i portieri lì vengono molto tutelati, e questo sta trappiccando l'altro. Sul secondo ascoltatore, sono tanti tifosi simpatia, che la pensano così. Ma c'è, ma no, ma è ovvio. Se facciamo oggi un sondaggio tra i tifosi, l'80% è per mandare via De Boer. Io dico semplicemente, però, che questa scelta qui è una scelta che una società fa per un'ottica che deve essere almeno di medio periodo. Quindi ragionare dopo 9 giornate, secondo me, è sbagliato, nel senso che è incoerente con la scelta che sarà fatta. Abbiamo il traffico. Tutti convocati. Agli invidiosi. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. È solo quel piccolo genio. Quelli che sanno fare tutto. È soltanto un bambino prodigio. Più genio. Sta arrivando Locatelli, buona posizione per lui. Prova il tiro! Rete incredibile! Locatelli! Incredibile! 18 anni! Milan Juve! Locatelli, gol all'ingrosso dei pali. Ma vive il suo ruolo di genio. E poi lo sguardo ti uccide. È nato in un giorno di gloria. Io non so ancora cosa ho combinato questo oggi, devo rivedere, segnare al portiere più forte al mondo, è un'emozione incredibile. Andiamo meno due da loro. Dedico questo gol sempre alla mia famiglia, che mi è sempre davvero vicino, ai miei amici che sono a casa a guardarla, due sono anche juventini, ai miei nonni, ai miei cugini juventini, e oggi dovranno tifare il Milan. Persona che parla di troppo in uscita, in costruzione, e quando questo succede non prendi gol contro la Juventus in due o tre circostanze del genere, e poi riesci a fare un gol del genere con questa tecnica, con questo coraggio, vuol dire che è sempre destinato. Vi rendete conto che forse siete l'anti-Juventus? Oggi abbiamo vinto questa battaglia, ma non è la guerra. Tanto Mourinho sotto 3-0 dopo 63 minuti contro Antonio Conte. Ha segnato anche Eden Hazard, 1-0 Bologna-Sassuolo, 20° traversa anche del Bologna con Torosidis, gol di Verdi su punizione. Demetrio Albertini, ciao. Verdi, ex vivaio del Milan come Manuel Locatelli. Allora, l'altra domanda è davvero o no un predestinato Demetrio Albertini più Luigi Pardo? Demetrio. Ma devo dire che sicuramente adesso, oggi è un uomo copertina, perché fare una cosa che ha fatto è straordinaria, l'ha detto anche il suo allenatore che lo vede tutti i giorni allenarsi. Ha le qualità per poter lavorare e per essere protagonista nel futuro del Milan, nel presente e nel futuro del Milan. Questo è. Però secondo te non è ancora un predestinato, nel senso, insomma, che si intende ad esempio quando si parla di Donnarumma, che onestamente sembra qualcuno già fuori categoria. Ragazzi, stiamo parlando di uno che ha 17 anni e di un altro che ne ha 18. Vabbè, però non bisogna aver paura. Albertini, io guardavo stamattina, Pier, è arrivato nel Milan nel 1991, avevi 20 anni appena compiuti, però insomma non sbagliava chi diceva che avresti fatto una grande carriera, non è che bisogna aspettare chissà quanto. Lui è un predestinato perché ha tutte le qualità per essere un grande calciatore. bisogna lasciarlo tranquillo, farlo crescere, lui deve lavorare assolutamente, perché quando hai 18 anni, come ha detto anche Vincenzo Montella, ho visto anch'io giocare meglio altre partite, però dopo fa un gol di questo tipo ed è straordinario, quindi diventi un predestinato, non prendi gol con la Juventus, ha tutte le carte in regola per poter diventare un grandissimo. Pier? Allora, innanzitutto ieri quando c'era questa cosa stavo vedendo la partita con amici e subito il nome di Demetrio è venuto fuori, quindi come paragone, perché è chiaro che insomma, entrare con così tanto coraggio, con così tanta sfrontatezza, con così tanta personalità e con queste soluzioni, perché questo è già il secondo super gol pesantissimo in partite decisive. Sono d'accordo con Demetrio, cioè se ti si vuole bene a questo ragazzo non bisogna assolutamente dirlo, magari lo si può pensare che sia un predestinato, ma insomma la quantità di variabili a quell'età che possono portarti a perderti oppure invece, come tutti ci auguriamo, a continuare a sbocciare in questo modo sono tante, quindi da questo punto di vista ci vuole secondo me grande serenità, e credo che il Milan, con tutti i difetti recenti ma anche con la forza di questo progetto che sta nascendo, che nonostante abbia vinto poco negli ultimi anni, rimanga un gran posto dove si può respirare un certo tipo di cultura delle vittorie, del lavoro, dell'organizzazione, quindi credo che da questo punto di vista le distrazioni saranno poche, la struttura societaria negli anni ha ottenuto traguardi straordinari e da questo punto di vista non la si deve valutare con l'ultimo periodo, non sono gli scudetti che non sono arrivati negli ultimi anni che cambia secondo me il tipo di ambiente nel quale questo ragazzo può crescere, quindi può crescere molto bene. Cioè, tu dici che c'è un terreno. Ma possiamo dire tutti quanti in coro bravo Montella? Beh, sta facendo un lavoro eccezionale. Dai, uno, due, tre. Dai, no, bravo Montella. Bravo Montella. Bravo, no, Montella. No, sta facendo un lavoro straordinario. Ha il coraggio, ma lui l'ha sempre detto, di mettere in campo giocatori di talento, non guardare solo l'esperienza dell'età. Una cosa che io dico da tanto tempo, che i nostri giovani ci sono, non solo al Milan, bisogna avere un po' di coraggio di farli giocare, anche di vederli sbagliare, perché poi vedremo non sempre le prodezze che ha fatto Locatelli, no? In qualcuno. Però, questo è chiaro. Però Demetrio, magari, posso dire che questa normalmente è una caratteristica di allenatori stranieri? Ad esempio l'anno scorso fu Sinisa Mihajlovic a rischiare la pelle mettendo in panchina Diego Lopez e facendo giocare un bambino dell'asilo. Sì, però non è solo. Io credo che ci possa essere anche degli allenatori, anzi ci sono degli allenatori italiani. Dipende dagli obiettivi, quello che ti metti. Oggi il Milan è arrivato a un punto che doveva ricostruire in una situazione societaria che tutti conosciamo, devi ricostruire un qualcosa che un po' di anni hai provato in tanti modi con strategie di mercato differenti, quelle dei parametri zero, quelli di aver speso tanto, l'anno scorso si erano buttate le basi, oggi si stanno ancora buttando delle basi importanti per un futuro, dico che ci sono tanti italiani giovani, li stai testando, e io continuo a dirlo, mi dispiace, se ci fossero state le seconde squadre questi qui sarebbero certo, forse già preparati certo. Poter essere avere magari qualche campionato più importante sulle spalle, avrebbero le spalle più larghe. Ieri il Milan aveva 6 giocatori nati negli anni 90 in campo all'inizio. Questo è il dato, questo è importante. Guarda, io credo che forse in realtà siamo stati anche un po' ingenerosi, nel senso che il Milan in questi ultimi anni ha fatto sicuramente degli acquisti da figurine, no? E noi l'abbiamo sempre detto, sottolineato, alcuni di questi hanno funzionato benino, altri hanno funzionato poco, però sembrava da questo punto di vista una società che faceva soprattutto dei colpi all'effetto per cercare di resuscitare un recente passato clamorosamente glorioso. Invece poi in realtà sotto a questo tipo di vetrina ce n'era un'altra, che è quella che stiamo vedendo. C'era Filippo Galli. Bravo Giovanni. Guarda, che sono quattro anni che il Milan semina con Filippo Galli nel settore giovanile. No, anche dal punto di vista del mercato, insomma, Romagnoli è stato pagato molto, un giocatore che è stato anche discusso molto, che sicuramente all'inizio ha aperto un po' di panico da San Siro, poi non lo so, Demetrio forse se lo potrà spiegare ancora meglio, ma pian piano sta crescendo. Cioè il Milan mi pare negli ultimi anni abbia fatto una politica diversa, una politica basata sul futuro, e Montella, lo dicevamo da anni, che sembrava avesse il più ruolo, direbbe Galliani, e io penso che questo non sia un fatto banale, ed è confermato dal fatto che Mihajlovic sta facendo bene al Torino. Quindi è abbastanza evidente che deve esistere un fitting, come dicono gli inglesi, no? una corrispondenza di amorosi sensi fra filosofia di un club e stile di un allenatore. E nel caso Montella-Milan, secondo me è perfetto, perché Montella gioca come piace al Milan. Il Milan per 30 anni ha giocato a pallone in un certo modo, ha cercato le vittorie, le ha ottenute, ma le ottenute sempre attraverso il gioco, e ha fatto molta fatica in quei rari momenti in cui c'erano degli allenatori invece che sceglievano altre strade. Quindi Montella, fin dalle prime partite, era perfetto proprio come filosofia. E questo è certamente vero, Demetrio. Noi abbiamo detto prima Filippo Galli, per dire che poi, ma questo deve essere anche un monito per il futuro, se scegli le persone giuste che sanno fare calcio anche in momenti difficili, figuriamoci in momenti magari in cui invece torneranno i soldi e tutto il resto, puoi ottenere dei buoni risultati. Però scusate, c'è stato un po', negli ultimi anni sono parlati tanto, sono stati tanti acquisti a parametro zero, a parte l'ultimo anno, che si sono investiti, e quando investi dei soldi su dei giovani di talento, poi dopo qualcuno può inserirsi subito, altri no, ma negli ultimi anni poi si cambiavano almeno 5-6 giocatori titolari ogni anno, e quindi diventava difficile anche capire dove si poteva andare. L'anno scorso, personalmente l'ho sempre detto, che si stavano buttando le basi, non si era raccolto magari quello che si era seminato, e lo si sta raccogliendo un po' di più adesso. È anche più facile, perché quando infili 2 o 3 risultati positivi c'è la fiducia, e quindi escono anche, specialmente per i giovani, sì, cambia tutto. È un qualcosa facile, un po' più facile. Cambia tutto. Giulio da quindi... Modena, che poi abbiamo la pausa. Giulio. Sì, salve, buonasera. Vai, ti ascolta Demetrio Albertini. Io chiedevo una cosa, ma anche che riguarda Demetrio Albertini, per quello che è il suo passato. E la Juve ha costruito il suo ciclo su fortissimi giocatori italiani. Il Milan sta provando a costruire qualcosa su giovani italiani interessanti. L'Inter gioca con tutti i stranieri. Per un allenatore che arriva e prova a fare qualcosa di nuovo, e non parlo di De Boer, che mi sembra arrivato dalla luna, poveretto, come fa a lavorare con solo 6, 7, 10, 15 stranieri di 8 paesi differenti che gli vanno via in nazionale e poi tornano una volta al mese? Insomma, qua si riesce a lavorare, Demetrio. E secondo me questa è la conseguenza logica. Sì, io è normale, capisco che io da tanti anni che lo dico, avendo un ruolo di un certo tipo, ho sempre detto che la storia insegna. Il senso di appartenenza in Italia non è solo quello dei settori giovanili, perché quello va a fortuna se hai tanti del tuo settore giovanile, no? Va a stagione. Però pensare di avere un senso di appartenenza da italiano lo ha fatto la Juventus, lo fa tante squadre, anche all'estero è uguale. In Spagna il senso di appartenenza sarà per gli spagnoli, no? E poi dopo inserisci i giocatori di qualità. Questa è una filosofia che io sposerei sempre, l'ho sempre detto, e non solo adesso. Sì, ma tu, guardiamo un po' tutti con simpatia a questo Milan, diciamo la verità, dobbiamo fermarci. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio. Ciao, grazie. Ciao. Grazie Demetrio Albertini. Ciao. Intanto, a proposito di filosofie, Conte 4 Mourinho 0, quarto gol ha segnato Kanté. Torniamo subito. Scambio Mourinho De Boer. Sì, sì. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare. Pagliarella, il tocco, Muriel! E la Samp la sblocca con Luis Muriel! Quindi non stia lì ad aspettare. Vede Nilsson, a testa alta, il cross è basso, la palla bassa! Il gol del pareggio, 1-1! Muriel, cross forte, Perini, rimpallo! E la Samp trova il 2-1! Questa partita veramente vuol diventare fantastica. Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare. Il derby è sempre il derby. Io sono cresciuto con con altri derby, ma questo credo che sia il derby migliore che ci sia. Giampaolo non è stato mai in discussione e oggi abbiamo fatto una grande gara. Guardiamo alla prossima, perché prima di questa eravamo nella cacca, tra virgolette. Ho detto sempre di giocare una partita alla volta e di non sprecare energie. Oggi abbiamo giocato questa bene, con grande cuore, con grande intensità. Io la cosa che non capisco nel calcio, però sto cominciando a entrarci, che se perdiamo una partita siamo dei coglioncioni, si può dire coglioncioni, no? E invece se vinciamo siamo dei leoni. Chi guarda Genova sappia che Genova. Si può dire, ma non lo so. Oh, perdoniamo Ferrero che dice Giampaolo non era a rischio solo perché il derby di Genova ieri è stato, Pier, talmente bello. E questa mattina ho provveduto a prendere il primo tempo almeno, fare il DVD e spedirlo in Cina e ci pagheranno dall'anno prossimo i diritti per il campionato migliaia di milioni. Partita meravigliosa. Saluto anche Guido Bagatta. Guido. Ciao Guido. Buonasera a tutti. Finalmente un bel derby di Genova, finalmente un bel derby in assoluto. Ma fammi togliere prima una curiosità che sto impazzendo. Sono due ore che Claudia Schiattone, la nostra autrice, abbiamo mi fatto dice, anche una riunione di redazione. Abbiamo fatto anche una riunione di redazione. Cos'è la storia del caprone che io avrei capito, Guido? Allora, martedì iniziano le World Series di baseball, dove sono arrivati i Chicago Cubs... che non vincono dal 1908, ma non vanno alle World Series dal 45, quando uno spettatore, proprietario di un bar di Chicago che si chiamava il The Goat, il caprone, portò allo stadio un caprone che puzzava. Non è una battuta, allontanato dal Wrigley Field, dalla sicurezza, se ne andò dicendo, va bene, voi mi buttate fuori e i Cubs non vinceranno mai più un titolo della Major League. Adesso dopo 71 anni tornano alle World Series dopo la maledizione del caprone. Ma sembra una puttanata, ma è una roba della quale parla metà America, perché è un rito. Pensate, una squadra di una grande città come Chicago che non vince dal 1908 e non va in finale dal 45, quindi unica nella storia dello sport americano, è unica. Se tutti vincono compro un caprone, me lo metto in giardino. Assolutamente, esatto. Se vincono compriamo tutti un caprone. Dai, cosa mi dite, Guido, Pier, del derby di ieri? Per quanto mi riguarda, diciamo molto fondoschiena da parte della Sampdoria, sicuramente, perché è un gol occasionale, però serviva una cosa del genere. I difetti ci sono sempre, cioè non c'è uno che dà la palla ai due davanti che sono superiori, e abbiamo un problema nel centrale di difesa, è visto nel gol del pareggio del Genoa, clamoroso. Pensa che avete vinto, Pier, pensa se fosse un tifoso del Genoa. No, bene, però insomma... Però io sono contento, ovviamente, ragazzi. La Samp è vero che è una squadra ancora imperfetta. Ieri ha giocato una partita di grande spirito, di grande orgoglio, di grande cuore. L'ha interpretata bene sia sullo 0-0 che poi sull'1-1. Ha avuto la forza comunque di metterci qualcosa secondo me di speciale, perché in questo momento secondo me è una più forte e arrivava anche meglio a questo derby. Quindi è un punto di partenza, può essere veramente uno snodo psicologico della stagione. La Samp era in grande difficoltà, Genova era partito benissimo, secondo me la partita di ieri non cambia la sensazione complessiva, la mia è che il Genova sia più forte della Samp, però intanto sono tre punti che cambiano completamente invece gli umori e che adesso possono ridare tanta fiducia. Poi Muriel ovviamente è un giocatore di livello molto importante, quindi se riesce a trovare continuità a questi livelli per un po' di tempo, io penso che già la Samp si è messa molto meglio di prima. Vabbè, ma questa cosa di Muriel, secondo me Giampaolo un merito ce l'ha, cioè sta facendo il miglior inizio stagione, Guido. Ma allora, Muriel è un giocatore che era stato dimenticato. Io che seguo il calcio non in maniera approfondita, me lo ricordo all'Udinese, da giovane fenomeno vero. Poi si è fatto male, non lo voleva più nessuno. Tra i tanti difetti che ha, Ferrero ha anche il pregio di ogni tanto capire che ci sono dei giocatori da recuperare. Nel football americano c'è uno che si chiamava Al Davis, che era il proprietario dei Raiders, gli Oakland Raiders, che faceva sempre questo recupero di persone che si erano fatte male o hanno avuto problemi di vita, via dicendo. Muriel è arrivato dopo l'infortunio, ha fatto un po' di fatica, il cambio continuo di allenatori non l'ha aiutato. Il talento è clamoroso, tant'è che anche in nazionale, la Colombia ce l'ha infilato, una nazionale che lì davanti non è priva di talenti. Non è scarsa, esatto, anche se Martinez è andato in Cina e si è un po' perso. No, Jackson si è un po' perso. sì, perché sì, Jackson Martinez ha lasciato andare. Paola da Milano, dai, che so che vuole parlare del derby di Genova. Paola. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Ovviamente tifosa sampdoriana, finalmente si parla del vero big match di ieri. Anche Milan Juve, ci conosciamo da molto pieghe. Tempo, sei stata anche qui. Sono dettagli. Nostro sono ospite, dettagli. Però adesso non esageriamo con il tifo più sfrenato. Paola, no. Dai. No, allora, siamo un po' Muriel dipendenti, questo è vero, perché era un po' che non timbrava il cartellino e onestamente Quagliarella non è più il Quagliarella di un tempo, sta cadendo un pochino anche lui, a parte il rigore sbagliato, quello ci può stare, però cioè, io l'ho visto in tutte le altre partite, è lento, non è più lo stesso. Poi la difesa, come diceva giustamente Guido Bagazza, si sa che dietro non è solo il problema del centrale, secondo me di conseguenza anche la fascia sinistra va un po' sistemata. Detto ragazzi, questo, mi fate impazzire, avete vinto un derby meraviglioso. Stiamo cercando ogni possibile difetto. Ma è giusto così, ma è giusto. Venivamo da un periodo talmente buio. La stagione della Sampdoria è cambiata con la sospensione per pioggia della partita di Roma. Lì noi stavamo vincendo una partita e se non fosse piovuto l'avremmo portata a casa. Poi è successo quello che è successo, un rigore che non c'era, se non sbaglio un gol che non c'era, comunque la partita... Sì, il rigorino su Dzeko, sì, sì. Esatto, bravissimo, la partita è girata dall'altra parte e da lì c'è stato veramente una specie, come si dice in inglese, twirling psicologico, praticamente un avvitamento psicologico che ci ha portati a diventare una squadra a rischio. Da un po' di tempo, due pareggi, ce la stiamo tirando fuori. Diceva giustamente lei che i problemi ci sono, ma non è che vince un derby, peraltro grande soddisfazione, godiamo con i pazzi, i problemi scompaiono, ci sono, speriamo di risolverli, okay. Però la squadra su certi giocatori e certi reparti, diciamo che per usare un eufemismo, per non far troppo piangere Ferrero, non è messa benissimo. Quanto stessi punti dell'Inter, quota 11, sì. Figurati l'Inter come ha messo. Ve posso dire una cosa bella? Sì. Gli posso dire una cosa caruccia? Sì. Che non c'avevo una squadra coglioncioni, eh? La squadra fortissimi. Grazie Guido. Ciao Guido. Ragazzi, mi raccomando sì, il caprone. Il caprone. Ma... c'avevo tanti di quei caproni. Ma noi da stasettimana seguiremo assolutamente la traiettoria di Chicago, assolutamente, certo. Dopo questo racconto. Io prenoto un caprone. Ma chi è lei? Mi fate salutare Pierluigi Pardo che sta entrando all'Olimpico. Ciao, dimmi ciao, solo ciao, una ciao, cosa Pier. Sulla Roma velocissima, che quello sliding door, quella partita sospesa per un po', in realtà è stato anche forse lo sliding door della Roma. Sì, stasera capiremo se i problemi difensivi e quel famoso metro in meno che si è fatto l'altra sera con l'Austria Vienna fosse dovuto al fatto che l'Europa League al momento, mentre tanto, aspetta un attimo, fosse dovuto al fatto che l'Europa League è una competizione ancora nella fase a gironi che insomma è poco sexy. Stasera la Roma non può sbagliare contro il Palermo, che vero paradosso non ha mai perso fuori casa, 4 partite ma ancora mai perso, ha fatto 0 punti in casa e tutti i punti 6 è fatti fuori, statisticamente è un dato abbastanza rilevante. Detto questo, se non avesse la Roma interpreta la partita con concentrazione non c'è storia, poi e ci manca che si vince va a 2 punti dalla Juve. Ciao Pier, grazie, buona partita. Ciao. Grazie, buona partita. Abbiamo il traffico, poi parliamo anche di motori. Intanto Bologna-Sassuolo, siamo nell'ultimo minuto del primo tempo, 1-0 per il Bologna. C'è stato anche un gol annullato a Krejci per fuorigioco di un metro, quindi nettissimo. Siamo nel finale di Chelsea-Manchester United, 4-0 per il Chelsea. Traffico. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Molto importante cercare di rimanere concentrato e cercare soprattutto di andare piano piano, step by step, perché non volevo fare un altro errore, soprattutto dopo la gara di Motegi. Sinceramente quando è caduto Marquez ho pensato di poter vincere, perché speravo di andarlo a prendere Craci. Ma nella seconda parte di gara ho sofferto un po', lui è stato più veloce e quindi grandi complimenti. Però secondo me i primi 10 giri sono stati belli, li voglio rivedere. Qui non male, per chi si è svegliato questa mattina alle 7, Gran Premio d'Australia, Philip Island, Rachlov, Rossi, Vignales, Marquez per terra a metà gara quando la stava dominando, ma tanto non cambia nulla perché Marquez ha già vinto il campionato del mondo, Rossi con 24 punti di vantaggio su Lorenzo, questo giusto per sempre per mettere in fila i numeri. Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ciao direttore. Ciao direttore. Buona serata a tutti. Bel Valentino Rossi per aprire grande, una domenica di motori che Valentino. Si chiuderà con la Formula 1. Sì, bello, ha dato un senso a chi si è svegliato stamattina presto per vedere la gara in Australia, perché partiva quindicesimo e sinceramente non è che ci fosse molta fiducia nelle sue possibilità, invece come ha detto lui ci ha fatto divertire per almeno una decina di giri, ci ha fatto divertire veramente, perché non è che gli hanno regalato i sorpassi se li ha fatti tutti, poi purtroppo quando è arrivato sotto a Crasso le gomme erano un po' finite, non ha potuto forzare ed attaccare, perché una volta che era caduto Marquez devo dire che l'acquolina in bocca era aumentata, insomma la voglia di vederlo vincere era diventata enorme. Accontentiamoci di questa grande rimonta, purtroppo da italiani diciamo che Marquez è caduto troppo tardi quest'anno, però ha dimostrato ancora di essere un grande campione, perché i campioni sanno anche quando cadere. Direttore, è il titolo più bello della carriera di Marquez, perché quello della maturità è una maturità raggiunta a 23 anni. Nelle altre occasioni erano semplicemente i lampi di un fenomeno. Ai lampi di un fenomeno si è aggiunta l'esperienza, si è aggiunta la capacità di ragionare, si è aggiunta la capacità di fare la voce grossa quando è stato il caso, ad esempio a Valencia. Resta il rammarico che Valentino Rossi e la Yamaha, ma a me importa Valentino Rossi, abbiano perso un titolo quando nella prima metà della stagione avevano nettamente la moto migliore. Poi, detto questo, Valentino Rossi raggiungerà, secondo me, e meritatamente, l'obiettivo minimo stagionale. Il duello mentale con Lorenzo. Con Lorenzo, esatto. Sì, quello sicuramente. Quello non c'è dubbio. Il problema è di Valentino, che ha perso qualche occasione, come dicevi giustamente tu, all'inizio dell'anno, soprattutto io credo che il Mugello sia clamoroso, Mugello Valentino, sì, che ha potuto vincere quei 25 punti sommati a quelli che ha fatto poi dopo in campione di Catalogna. A Barcellona avevo potuto portarlo veramente a livello di Marquez e quindi a giocarsi veramente il titolo nelle ultime gare. Yamaha ha sbagliato qualcosa anche nella gestione dei box, insomma quest'ultimo Gran Premio hanno pasticciato molto sabato in qualifica e ancora prima venerdì nelle libere. Un Valentino che partiva davanti in Australia probabilmente avrebbe potuto poi andarla a vincere, sì, la gara. C'era qualche tutto, errore, tutto per vincere qualche errore l'ha fatta Valentino, perché anche lui è caduto qualche volta, e qualche errore grosso l'ha fatto il team, e Marquez invece non ha sbagliato assolutamente nulla e ha vinto un mondiale con una moto che per la prima parte della stagione non era la moto vincente, tanto che abbiamo avuto un periodo del campionato in cui ogni domenica abbiamo avuto un vincitore diverso, e era anni che non vedevamo piloti con moto di team privati vincere. Quest'anno ne abbiamo avute addirittura tre vittorie, con le due con Vignales e le due di Crasso, in più abbiamo vinto anche una Ducati vincere, insomma è stato un mondiale comunque stato un mondiale molto divertente, vario, divertente, molto più di quello delle auto, diciamolo, ore 21, ore italiana, Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, i Ferrari siamo al solito, intanto Chelsea 4, Manchester United 0, finale, con Mourinho che sta parlando nell'orecchio di Antonio Conte, finale di primo tempo invece Bologna 1, Sassuolo 0, questo per aggiornare quello che sta succedendo. Hamilton in pole, cosa dobbiamo aspettarci? Che gara ti aspetti? Ma mi aspetto che Hamilton finalmente non sbagli la partenza, come gli è capitato nelle ultime volte, e che tenga vivo questo mondiale. Magari che qualcosa capiti a Rosberg, in modo che si arrivi alle ultime gare con i due più vicini di quanto non siano oggi. Tanto per divertirsi un po'. Tanto per divertirsi, esatto. L'unico motivo per guardare un Gran Premio e vedere chi lo vince tra loro due, perché la Ferrari è inutile che ci illudiamo. Mi sembra che su questa pista la Red Bull ne abbia di più della Ferrari, perché l'aerodinamica conta molto, quindi... La Ferrari da podio vorrebbe dire che si rompe una Mercedes e una Red Bull, se no la vedo molto difficile. Vediamo la partenza, però, perché Ricciardo ha detto: io mi sono scelto le super soft anche per tentare di essere aggressivo al via. Siccome è un po' un punto debole dei due Mercedes la partenza, vediamo cosa può succedere al via. Sì. Poi, la prima curva ci ha regalato emozioni in questa stagione. Sì, spesso le uniche, però insomma, almeno quella va vista, poi vediamo se cambiare canale o restare sul Gran Premio. Grazie direttore. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta. Abbiamo ancora un minuto. Giambattista da Perugia. Giambattista. Giambattista? Pronto? Dai, però devi Pronto? Spegnere la radio e ascoltarci solo al telefono. Prego. Buonasera, io sono un estimatore della Juventus, un grosso estimatore di Antonio Conte e un po' critico nei confronti di Allegri. Volevo fare innanzitutto i complimenti a... Volevi fare i complimenti a chi, Giambattista? A Conte, che ha vinto 4-0 con il Chelsea. Esattamente. Contro Mourinho, esattamente. E invece volevo fare la critica alla Juventus di Allegri, perché noi giochiamo con l'idea che il gol non lo pigliamo e prima o poi lo facciamo, ma non funziona proprio così in Europa. Difatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Grazie. Grazie a te, Giambattista. Più o meno funziona così in Europa. Poi ha lasciato 6 punti a San Siro, ma... C'è, ogni tanto si bisogna, può perdere, bisogna sempre Guardiola ne ha presi 4 a, sì. Bisogna sempre migliorare, bisogna migliorare molto e come si fu questa partita e possiamo dire al nostro Frank che il pullman parte. voglio sempre vincere e questa e la filosofia gioco. Dai, andiamo avanti domani noi, ci dobbiamo fermare perché sempre... sarà ora di cominciare. Allora io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi e Roberta Frizzani, c'era anche Valeria Bernardi in regia, ringrazio anche Roberta. Il nostro Andro Mercuco, le sue mille voci. Noi torniamo domenica prossima alle 17, passo a passo. Noi ci siamo, De Burr chissà, e invece domani dopo il GR in l'Europa delle 14 ci sono io, non c'è Carlo, prendo un turno di riposo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Sì. Poi il risultato è importante, ma tutto il resto è noia.